quando ebbi finito di leggere. Ad alta voce. Chiara Guidi legge Memorie del sottosuolo di Fyodor Dostoevskij. Traduzione di Alfredo Polledro. 17ª puntata. Senza spiegarmi nulla, quasi che io, come un essere superiore, dovessi sapere tutto senza spiegazioni, Lisa mi porse un foglietto. Tutto il suo volto si illuminò in quell'attimo della più ingenua e quasi infantile solennità. Apersi. Era una lettera diretta a lei da uno studente di medicina o qualcosa del genere. Una dichiarazione d'amore, molto ampollosa, fiorita, ma straordinariamente rispettosa. Non rammento ora le espressioni, ma ricordo benissimo che attraverso lo stile solenne traspariva un autentico sentimento di quelli che non si possono fingere. Quando ebbi finito di leggere, incontrai su di me lo sguardo caldo, curioso e fanciullescamente impaziente di lei. Aveva gli occhi fissi sul mio viso e attendeva con impazienza quello che avrei detto. In poche parole, alla svelta, ma in un certo modo gioioso e come inorgoglita, ella mi spiegò che era stata una serata danzante in una famiglia da certe persone molto, molto, molto buone, che avevano famiglia e dove non sapevano ancora nulla, proprio nulla, nulla, perché lei si trovava soltanto lì da poco tempo e soltanto così, e non si era ancora affatto decisa a restare e senza dubbio sarebbe venuta via non appena avesse pagato il debito. Là c'era quello studente, per tutta la sera aveva ballato e parlato con lei ed era venuto fuori che ancora a riga, ancora da bambino la conosceva. Avevano giocato insieme, ma moltissimo tempo prima, e conosceva i genitori di lei, ma che di questo nulla, nulla, nulla, nulla sapeva e ne sospettava. Ed ecco il giorno dopo il ballo, 3 giorni addietro. Lui, per mezzo dell'amica con cui era andata la serata, le aveva mandato questa lettera. E ecco tutto. Come per pudore, ella abbassò i suoi occhi sfavillanti quando ebbe finito di raccontare. Poveretta. Povera Lisa, conservava la lettera di quello studente come una cosa preziosa. Ed era corsa a prendere questa sua unica cosa preziosa, desiderando che non me ne andassi, senza aver saputo che anche lei l'amavano onestamente, sinceramente, che anche a lei parlavano con rispetto. Di sicuro questa lettera era destinata a starsene nella cassettina senza avere conseguenze, ma faceva lo stesso. Sono sicuro che lei l'avrebbe conservata tutta la vita come una cosa preziosa, come il suo orgoglio e la sua giustificazione. E ora lei stessa, in un momento come quello, se n'era ricordata e aveva portato questa lettera per inorgoglirsene ingenuamente dinanzi a me, riabilitarsi ai miei occhi perché vedessi, perché guardassi anch'io. Io non dissi nulla. Io le strinsi la mano e uscii. Avevo tanta voglia di andarmene. Feci tutta la strada a piedi, benché la neve bagnata continuasse a venir giù a fiocchi. Ero sfinito, schiacciato, perplesso. Ma la verità sfavillava già di là dalla perplessità. Una disgustosa verità. presto. Io non acconsentì tanto presto ad ammettere questa verità. Svegliatomi al mattino, dopo alcune ore di sonno profondo, plumbeo, e considerata immediatamente tutta la giornata precedente, mi stupì addirittura del mio sentimentalismo del giorno prima con Lisa, di tutti quegli orrori e compassioni di ieri. Capita proprio d'essere presi così da un turbamento nervoso da donnicciole, conclusi. E a che scopo mai le ho rifilato il mio indirizzo? E se verrà? Ma del resto magari venga pure, non fa niente. Ma evidentemente la faccenda principale più importante ora non consisteva in quello. Bisognava affrettarsi e a qualunque costo salvare al più presto la mia reputazione agli occhi di Zverkov e di Simonov. Ecco in che cosa consisteva la faccenda principale. E di Lisa quella mattina mi dimenticai interamente. Addirittura tanto mi diedi da fare. Prima di tutto bisognava immediatamente restituire il debito di ieri a Simonov. Mi risolsi a un mezzo disperato, quello di prendere in prestito ben 15 rubli da Anton Antonovich. Come a farlo apposta, quella mattina lui era di ottimo umore e me li diede subito alla mia prima richiesta. Ne fui così lieto che, firmando la ricevuta con una certa aria spavalda, gli comunicai con noncuranza. Ieri abbiamo fatto bisboccia con degli amici all'Hotel de Paris. Salutavamo un compagno, anzi, si può dire un amico d'infanzia. E lui, sapete, è un gran bisboccione, molto viziato, beh, si intende di buona famiglia. Ha una sostanza considerevole e una brillante carriera. È spiritoso, simpatico. Ha degli intrighi con queste signore, capite? Ne abbiamo bevute una mezza dozzina di troppo. Ed era come niente fosse. Tutto questo mi veniva detto con molta facilità, disinvoltura, soddisfazione. Arrivato a casa, scrissi immediatamente a Simonov. Mi compiaccio ancora oggi nel ricordare il tono veramente da gentleman, bonario, aperto della mia lettera. Con abilità e nobiltà, ma soprattutto assolutamente senza parole superflue. Mi accusavo di ogni cosa. Mi giustificavo sempre che mi sia ancora lecito giustificarmi col fatto che, non essendo assolutamente abituato al vino, mi ero ubriacato fin dal primo bicchiere che avevo bevuto, dicevo, prima ancora di loro, quando li aspettavo all'Hotel de Paris dalle 5 alle 6. Chiedevo scusa prevalentemente a Simonov, pregavo lui di trasmettere le mie spiegazioni anche a tutti gli altri, specialmente a Zverkov, che, me ne ricordo come in un sogno, mi pareva aver offeso. Aggiunsi che sarei andato io da tutti, ma mi doleva il capo e soprattutto mi vergognavo. Rimasi particolarmente soddisfatto di quella certa leggerezza, anzi, poco meno che noncuranza, del resto per nulla sconveniente, che a un tratto aveva trovato espressione nella mia penna e, meglio di tutti gli argomenti possibili, faceva capir loro di colpo che guardavo a tutta quella schifezza di ieri in modo abbastanza indipendente. Non ero proprio per niente, non ero affatto annientato, come quei signori probabilmente pensavano, ma al contrario guardavo alla cosa come deve guardarvi un gentleman che tranquillamente si rispetti. La verità, a quel che dicono, non fa vergogna. C'è perfino una certa giocosità da marchese. Mi dicevo con compiacenza, rileggendo il biglietto. E tutto perché sono un uomo evoluto e istruito. Altri, al mio posto, non saprebbero come trarsi d'impaccio. Ma io me la sono cavata e me la spasso da capo. E tutto ciò perché sono un uomo istruito ed evoluto del nostro tempo. E poi c'è caso che tutto quello sia derivato davvero dal vino. No, non dal vino, Di acquavite non ne ho bevuta affatto dalle 5 alle 6 quando li aspettavo. Ho detto una bugia. A Simonov ho detto una bugia nel modo più svergognato. E anche ora non me ne vergogno. Ma del resto me ne infischio. Me ne infischio. L'essenziale è che me la sono sbrigata. Misi nella lettera 6 rubli. La sigillai e ottenni da Apollon che la portasse a Simonov. Saputo che nella lettera c'era del denaro, Apollon divenne più rispettoso e acconsentì ad andarci. Verso sera uscii a fare 2 passi. La testa ancora mi doleva e mi girava dopo i fatti del giorno prima, ma quanto più si inoltrava la sera e quanto più scuro diventava il crepuscolo, tanto più mutavano e si confondevano le mie impressioni e con esse anche i pensieri. Qualcosa non moriva dentro di me, nel profondo del cuore e della coscienza. Non voleva morire e si esprimeva con una cocente malinconia. Vagai soprattutto per le vie più popolose, più dedite al traffico, per le Meschansky, per la Sotovaia, presso il giardino Yusupov. Mi era sempre piaciuto in modo speciale passeggiare per queste vie al crepuscolo, precisamente quando vi si addensa una folla d'ogni sorta di passanti, operai, artigiani, con facce impensierite fino alla cattiveria, che se ne va alle sue case, venendo dalle occupazioni diurne. Mi piaceva precisamente quel miserabile affaccendarsi, quello sfacciato prosaismo. Questa volta tutta quella ressa della strada mi irritava ancora di più. Non riuscivo in nessun modo a venire a capo di me stesso, a trovare il bandolo. Qualcosa si sollevava incessantemente con dolore nell'animo mio e non voleva placarsi. Tornai a casa proprio sconvolto, come se sulla mia coscienza pesasse un delitto. Mi tormentava sempre il pensiero che sarebbe venuta Lisa. Mi riusciva strano che fra tutti quei ricordi del giorno precedente il ricordo di lei mi tormentasse in modo speciale del tutto a sé. Tutto il resto, verso sera, ero già riuscito a dimenticarlo interamente. Ci avevo fatto una croce su e rimanevo ancora pienamente soddisfatto della mia lettera a Simonov. Ma su questo punto, non so come, non ero più soddisfatto. Come se mi tormentasse solamente il pensiero di Lisa. E se verrà? Beh, che c'è? Non fa niente, venga pure. E se verrà? Venga pure. È già brutto che vedrà. Che vedrà, per esempio, come vivo. Lascia che venga. Ieri mi sono fatto vedere da lei così eroico e ora, beh, e se viene? Del resto è brutto che io mi sia lasciato così. Lasciala che venga. C'è una vera miseria nel mio alloggio. Pensavo incessantemente. E ieri ho osato andare al pranzo con questo vestito. E il mio divano d'incerata da cui scappa fuori la stoppa. E me le veste da camera con cui non ci si può coprire. Sono dei brandelli. E lei vedrà tutto questo, ma lascia che venga. Vedrà tutto questo, ma lascia che venga. Vedrà anche Apollon. Questo bestione di sicuro la offenderà. Troverà a ridire su di lei per farmi una villania. E io, si intende, al solito mi piglierò paura, mi metterò a fare i miei passettini davanti a lei, a coprirmi con le falde della veste da camera. Mi metterò a sorridere. Mi metterò a dire il falso. Che porcheria! Che porcheria! E non sta nemmeno qui la porcheria principale. Qui c'è qualcosa di più importante, di più schifoso, di più vile. Sì, di più vile. E di nuovo mettere questa maschera disonesta, menzognera! Arrivato a questo pensiero, avvampai addirittura. Perché disonesta? Che maschera disonesta? Ieri parlavo sinceramente. Ricordo che anche in me c'era un sentimento vero. Volevo appunto suscitare in lei dei nobili sentimenti. Se ha pianto, è un bene. È un bene, se piando avrà un'azione benefica. Ma tuttavia non trovavo modo di potermi calmare. Tutta quella sera, anche quando ero già tornato a casa, già dopo le 9, quando secondo i miei calcoli Lisa non poteva venire in nessun caso, ella mi comparve dinanzi lo stesso, e l'essenziale era che mi tornava la memoria sempre nella stessa posa. Precisamente un solo momento di tutto quanto era accaduto il giorno prima mi appariva con particolare chiarezza. Era quando avevo illuminato con un fiammifero la stanza e avevo visto il suo volto pallido, alterato, con quello sguardo da martire. E che pietoso, che sforzato, che contorto sorriso aveva in quel momento. Ma io allora non sapevo ancora che anche 15 anni dopo mi sarei figurata lo stesso. Adesso Lisa, proprio col pietoso, contorto, inutile sorriso che aveva in quel momento. Il giorno dopo ero già di nuovo pronto a considerare tutto questo come un assurdo, come risultato di nervi sconvolti e soprattutto come una esagerazione. Avevo sempre avuto coscienza di questo mio lato debole e a volte l'avevo temuto molto. E questo è il mio debole. Esagero tutto. Mi ripetevo ogni momento. Ma del resto Lisa, magari verrà lo stesso. Verrà. Ecco il ritornello col quale si concludevano tutti i miei ragionamenti di allora. Ero talmente inquieto che qualche volta entravo in furore. Verrà senz'altro, esclamavo correndo per la camera. Se non oggi, verrà domani, ma mi scoverà, verrà. È così maledetto il romanticismo di tutti questi cuori puri. Oh, bassezza, oh, stupidità e limitatezza di queste immonde anime sentimentali. Beh, come si fa a non capire? Come si potrebbe fare a non capire? Ma verrà. Ma qui mi fermavo da me e perfino con grande confusione. E quanto poche sono le parole, pensavo di sfuggita, che sono state necessarie, quanto poco è l'idillio che è stato necessario, e un idillio per giunta ostentato, libresco, inventato, per rovesciare subito a modo proprio tutta una vita umana. Quella sì che è verginità, quello sì che è un terreno nuovo. A volte mi veniva l'idea di andare io da lei, raccontarle tutto e ottenerne che non venisse da me. Ma allora a questa idea si sollevava in me una tal rabbia che credo che avrei addirittura schiacciato quella maledetta Lisa. Se a un tratto mi fosse capitata vicino, l'avrei offesa, l'avrei coperta di sputi, l'avrei cacciata via, l'avrei picchiata. Eppure passò un giorno, un secondo giorno, un terzo giorno, lei non veniva e io cominciai a tranquillarmi. Specialmente mi rinfrancavo e mi rasserenavo dopo le 9. A volte cominciavo perfino a sognare e abbastanza dolcemente. Io, per esempio, salvo Lisa. Proprio col fatto che viene da me le parlo. Io la educo, la istruisco. E finalmente noto che mi ama. Mi ama appassionatamente. E fingo di non capire. Non so del resto perché. Perché fingo? Così. Per bellezza, probabilmente. E finalmente Lisa, tutta turbata, bellissima, tremando e singhiozzando, si getta ai miei piedi e dice che io sono il suo salvatore e che lei mi ama più di tutto al mondo. Io mi stupisco, ma Lisa, dico, è possibile che tu pensi che io non abbia notato il tuo amore? Ho visto tutto, ho indovinato, ma non osavo aspirare per primo al tuo cuore. Perché avevo un influsso su di te e temevo che tu, per gratitudine, ti saresti costretta di proposito a rispondere all'amor mio, che tu stessa avresti suscitato a forza in te un sentimento che forse non c'era. E questo non lo volevo. Non lo volevo. No, no, perché? Perché è dispotismo. È delicato, beh. Insomma, qui cominciavo a perdermi in qualche sottigliezza europea indicibile. No, no, perché? Alla George Sand. Ma ora tu sei mia. Sei la mia creazione, sei pura, bellissima. Sei la mia bellissima moglie. E in casa mia, ardita e disinvolta, entra come padrona illimitata. Dopodiché cominciavamo a vivere contenti e felici. Andavamo all'estero e, in una parola, mi sentivo avvilito io stesso. E finì col mostrarmi la lingua. Ma non la lasceranno nemmeno venire, quella donnaccia, pensavo. Mi pare che non le lasciano troppo andare a spasso, tanto più la sera, chissà perché, mi pareva assolutamente che dovesse venire di sera, e precisamente alle 7. Ma del resto lei ha detto che là non si è ancora servita del tutto, che è in una posizione speciale, dunque, che il diavolo la porta. Verrà, senza. Chiara Guidi ha letto Memorie del sottosuolo di Fyodor Dostoevskij, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it. Per riascoltare il programma, radio3pod.rai.it.